America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Milano, Mario Platero. Devo dire, il messaggio da Berlino e poi dal G8 era per un incoraggiamento alla crescita dell'economia, ma come abbiamo visto i mercati hanno ascoltato più le parole di Ben Bernanke e quelle che erano preoccupazioni di fondo per approfittare e buttarsi in un realizzo di profitti. Oggi la situazione è più stabile, naturalmente a Milano c'è molta cautela, ma ieri le perdite sono state di oltre il 3%. In America una perdita del 2,34%, 353 punti dell'indice Dow Jones, che è caduto al di sotto di quota 15.000 a quota 14.758. Nella notte il Nikkei è andato un po' meglio, ha recuperato più 1,7%. Siamo comunque in una fase molto delicata, i mercati hanno corso parecchio e ci sono preoccupazioni di fondo che riguardano non soltanto le parole della Federal Reserve, ma una debolezza dell'economia cinese. Poi ieri nel tardo pomeriggio è giunta la notizia che il Fondo Monetario avrebbe potuto sospendere i finanziamenti alla Grecia, cosa che naturalmente ha preoccupato i mercati americani, perché questo creerebbe immediatamente delle disfunzioni in Europa. Resta il fatto che l'elemento scatenante che ha trasformato la giornata di giovedì come una giornata nera per i mercati mondiali è partita da Washington, dalla Federal Reserve. Dobbiamo chiederci, si tratta di isteria? Perché in fondo Ben Bernanke non è che abbia detto nulla di nuovo, potrebbe essere semplicemente la scusa, l'elemento catalizzatore per procedere con un realizzo di profitti. Cerchiamo di analizzare la situazione e cominciamo a sentire Ben Bernanke. The Federal Open Market Committee concluded a two-day meeting earlier today. Based on its review of recent economic and financial developments, the committee sees the economy continuing to grow at a moderate pace. Queste parole di Ben Bernanke, lo avete ascoltato, dice sostanzialmente che se l'economia continuerà ad andare come sta andando adesso, a un certo punto, prima della fine dell'anno, la Federal Reserve comincerà a rallentare la manovra QE3, cioè la manovra di quantitative easing, la manovra di accomodamento che prevede l'acquisto di 80 miliardi di dollari in buoni del tesoro americano ogni mese per contribuire alla liquidità di cui c'era bisogno per sostenere la crescita economica. Questa frase singolarmente ha generato quel panico annunciato in qualche modo, perché ne abbiamo parlato sia in questa trasmissione sia sul giornale. Abbiamo detto, quando Bernanke chiarirà che a un certo punto la manovra del quantitative easing andrà più o meno a finire, ci sarà prima una reazione di panico, di timore, dopodiché tutti si accorgeranno che in fondo cambia poco. E nonostante questa agitazione fosse annunciata, nonostante il copione fosse in qualche modo noto, tutto si è verificato puntualmente, perché insomma a me è colpito una cosa: Bernanke mercoledì non ha davvero detto nulla di nuovo, ha ripetuto quello che aveva anticipato nello scorso Federal Market Open Committee, ha sottolineato che la sua posizione riflette il dibattito di quella riunione, c'erano state delle dichiarazioni di governatori della Federal Reserve che anticipavano forse una diminuzione di questo quantitative easing, e dunque la strategia di comunicazione della Fed, che l'ho sottolineato altre volte, è sicuramente più avanzata, più accurata, più equilibrata rispetto a quella della Banca Centrale Europea, aveva cercato di preparare il mercato a questa notizia. Eppure, inevitabilmente, nel momento in cui il fatto si verifica, il mercato reagisce. Perché? Perché psicologicamente i mercati si aspettano che si sia chiusa in qualche modo un'era con queste parole di Ben Bernanke. Il governatore della Fed lo ha ufficializzato, e dunque nel momento in cui è ufficializzato che forse ci sarà meno liquidità sul mercato, significa che la Federal Reserve sta cominciando a entrare nell'exit strategy, quindi una strategia di uscita dalla politica monetaria accomodante in generale, dunque non soltanto sul quantitative easing, e che alcuni settori dell'economia, primo fra tutti quello immobiliare, torneranno a soffrire. Ecco, questo passaggio mentale può anche avere una sua logica, ma io devo dire tendo a non condividerlo. In this scenario, when asset purchases ultimately come to an end. Di nuovo Bernanke, che ha usato una delle due analogie che ho trovato molto interessante, perché chiaramente la Fed sapeva che i mercati erano nervosi, erano tesi, avrebbero reagito male nel momento in cui la Fed avrebbe ufficializzato un'uscita da questa manovra di quantitative easing. E cosa dice Bernanke in questo passaggio? Che nel momento in cui l'economia dovesse migliorare abbastanza, sufficientemente per darci rassicurazioni, diciamo nel 2015, quindi prende comunque un orizzonte molto lontano, a quel punto dice la Fed potrebbe anche far atterrare il suo proverbiale jet sulla portaerei. Ecco, ha usato questa analogia del jet che atterra sulla portaerei per parlare di che cosa? Per dire che lui sta cercando di orchestrare l'atterraggio morbido dell'economia, l'atterraggio morbido di un aggiustamento della politica dei tassi, perché la teoria macroeconomica ci insegna che tutto poggia su un equilibrio e dunque se si eccede con la politica monetaria accomodante si creano delle bolle di liquidità che poi potrebbero creare dei danni ancora peggiori. E poi con quest'altra metafora, a breve, sentite che dice... To use the analogy of driving an automobile, any slowing in the pace of purchases will be akin to letting up a bit on the gas pedal as the car picks up speed, not to beginning to apply the brakes. Ecco, qui Bernanke dice, beh, voglio usare l'analogia di un'automobile. Guidare a un'automobile può significare molte cose, però nel momento in cui si vuole rallentare, perché magari si sta correndo troppo, non c'è bisogno di mettere il pedale sul freno, basta semplicemente alzare il piede dall'acceleratore. Dunque il percorso che ha annunciato mercoledì Ben Bernanke, rallentamento degli acquisti a partire da qualche mese prima della fine dell'anno, continuare il rallentamento nel corso del 2014, arrivare a un esaurimento, ma non a un aumento dei tassi, ma un esaurimento delle politiche di acquisto verso la metà del 2014, coincide con quel tasso che aveva già annunciato molti mesi fa, quel tasso di disoccupazione del 6,5%, discriminante, aveva detto il presidente della Fed, per suggerire un'inversione di politica monetaria. Tutto annunciato dunque, eppure i mercati sono caduti dappertutto. Siamo a una correzione? Ecco, forse io credo che più che le dichiarazioni di Ben Bernanke siano state le psicologie fragili degli investitori che, dopo aver visto una corsa straordinaria per l'indice Dow Jones a Wall Street, erano, come dire, pronti per procedere con un realizzo di profitti. La mia impressione è che, guardando nel medio-lungo periodo, le cose non cambieranno di molto in America. L'anno prossimo, se ci sarà un aumento dei tassi di interesse, sarà contenuto. Dunque il pronostico qual è? Che a un certo punto gli investitori si accorgeranno che, nonostante le parole di Bernanke, le cose più o meno resteranno uguali da qui ai prossimi 2 anni, e che forse l'economia americana potrà continuare a crescere, come ha detto Barack Obama l'altro giorno, molto più rapidamente di quello che sta facendo l'Europa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di economia, di Federal Reserve, di mercati, e allora vi propongo dei Pink Floyd, Money. Da Milano è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.